E noi ripeteremo. Ecco, ora secondo me si sente. Eccoci, ma chissà, siamo in una tana nuova qui alla Fuga del Gatto e quindi è tutto strano, è tutto diverso, è cambiato tutto, quindi non ci capiamo molto e chissà, cioè non avrebbe dovuto funzionare, ma invece sta funzionando, pare. Beh, sta funzionando solo grazie a te, perché se fosse per me, che già di normale non ci capisco niente, sarebbe il buio, ma fortunatamente ci sono degli esseri senzienti, utili e non solo suppellettili come me, quindi grazie alla Mari, oggi andiamo in onda, come sempre, con una puntata, direi, insomma, interessante, speriamo, per voi, sul certo, poema. Certo, non fare la modesta, certo che è interessante. Vabbè, per me sì, però Mari, ora c'è altri gusti. Il poema sinfonico, oggi è una... in realtà, però oggi ne facciamo una, poi probabilmente lo riprenderemo anche l'argomento. In realtà, niente di cui non abbiamo già parlato, perché, come spesso succede nella musica classica, no? Le forme, appunto, danno un'etichetta alle opere, però poi le opere hanno molte vite, molte forme, appunto, e ritornano in maniera diversa. Quindi in realtà abbiamo già incontrato, senza sapere magari che si chiamassero poemi sinfonici, abbiamo già incontrato dei poemi sinfonici lungo la nostra strada, anzi diversi, come vedremo poi, e diverse opere che abbiamo poi scoperto, almeno io ho poi scoperto, che venivano sotto la categoria di poema sinfonico. E che cos'è? Che cos'è? È una composizione musicale per orchestra, solitamente in un movimento, di ampio respiro e che sviluppa, appunto, attraverso il suono, un'idea poetica, ispirata dalle più svariate, diciamo, occasioni extra musicali che possono essere derivanti dalla letteratura, dalla pittura, dalle arti e anche solo da a volte esperienze personali del compositore, dell'artista. Più solitamente, più comunemente sono, diciamo, nascono da appunto un'opera letteraria in versi, molto spesso ci sono appunto i preludi di Franz Liszt, vedremo un'altra opera di Liszt che abbiamo in ascolto, o di opere di prosa come il Don Quixote di Strauss, ma anche di opere figurative o filosofiche come per esempio, sempre di Strauss, il Così parlò Zarathustra. Possono essere altrimenti un omaggio a luoghi o ad occasioni particolari, quindi diciamo a sfondo chiamiamolo un po' paesaggistico o estetico di ricordo, i pini di Roma, le fontane di Roma, le feste romane, appunto il ciclo ispirato a Roma di Ottorino Respighi. Sempre di Ottorino Respighi avevamo fatto una puntata, qualcuno di voi se lo ricorderà, sul trittico botticelliano, sui tre dipinti di Botticelli. Ecco, per esempio quello è un poema sinfonico. Quindi a volte sono anche una pura e libera intuizione del compositore, per esempio una saga di Jean Sibelius. È quindi, diciamo, una sintesi, ecco, di alcune visioni che poi si trasformano in opera musicale. Molte sono anche poi destinate ad altre opere, come diventano per esempio suite per balletto. Pensiamo a Romeo e Giulietta di Tchaikovsky, ma anche ad altri esempi. Qualche teoria sostiene che sia una derivazione abbastanza diretta della musica a programma, che fu una delle forme predilette dei musicisti romantici. Infatti Berlioz, nella sua Sinfonia Fantastica, e nell'Aroldo in Italia, che sono tutte e due poemi, considerati poemi sinfonici. Tra i musicisti che più, diciamo, amarono e svilupparono questo tipo di composizione, sicuramente Liszt, appunto, che coniò addirittura il termine, a lui infatti, da lui viene il termine poema sinfonico, sicuramente Tchaikovsky, ma anche Dvorak, Strauss, leggevo appunto Sibelius e il già citato Respighi. Ecco, questo è un po' così una panoramica così veramente generica, generale, su che cos'è un poema sinfonico e come in realtà appunto ne abbiamo già incontrati diversi nel nostro cammino, come per esempio Una notte sul Monte Calvo di Mussorgsky, Quadri di un'esposizione, sempre di Mussorgsky, ma anche appunto L'apprendista stregone di Paul Dukas, che abbiamo spesso citato in varie trasmissioni, ma anche quando abbiamo fatto delle trasmissioni dedicate alla musica e alla letteratura, inevitabilmente ci siamo incappati, perché appunto La Tempesta, Omleto, molti tratti da Shakespeare sono in realtà poi poemi sinfonici. Ma infatti, senza anticipare troppo, perché sennò poi non abbiamo più niente da dire dopo. Allora, in realtà... ci giochiamo tutto così. No, diciamo che fondamentalmente, per farla molto molto breve, molto stringata e molto semplice, potete intravedere una storia in un poema sinfonico. Un po' la differenza con altri tipi di composizione è che ci vedete una storia, ce l'ascoltate, ce la sentite e ce la potete anche immaginare, cioè è facile immaginare una storia, un paesaggio, un particolare, comunque vi sta raccontando qualcosa. E la prima che vi facciamo, la prima storia in qualche modo, il primo racconto che vi facciamo ascoltare è di, oddio, è difficilissimo perché ho il microfono in un modo, la scaletta in un altro, il programma in un altro, madonna. Sì, oggi è da torcicollo. Madonna, veramente difficilissimo. Siamo abituate male noi. Ecco, la prima è di Liszt, l'abbiamo citato, Franz Liszt, in particolare, vabbè, ce ne sarebbero molte da far ascoltare e nella nostra scaletta così di promemoria che ci siamo fatti, ve lo diremo poi piano piano, ce ne abbiamo mille di poemi sinfonici da consigliarvi anche, però di Liszt abbiamo scelto Tasso, Lamento e Trionfo del 1848, un poema sinfonico ovviamente composto diciamo tra il 1848-49, revisionato poi in realtà molte volte, come spesso succedeva, insomma non era una cosa strana, però revisionato sia nel 50-51 e poi di nuovo nel 54, evidentemente era un po' l'anima in pena, e viene diciamo archiviato come il numero 2 del ciclo di 13 poemi sinfonici di Liszt composti in quello che viene detto il periodo di Weimar. Allora, dicevamo che c'è avuto varie stesure, la prima bozza viene fatta risalire al 1 agosto del 49, del 1849, e si dice che Liszt aveva udito il tema principale per il Tasso a Venezia diversi anni prima, e lo utilizzò, come spesso succede, l'abbiamo detto tante volte, alla fuga del gatto che non si butta mai via niente e si tende a copiare, e questo insomma è giusto e sacrosanto, e non ci se ne fa un cruccio. E così fece Liszt, riutilizzò questo tema appunto ascoltato anni prima a Venezia e lo utilizzò in questa versione nella versione del 40 di un pezzo per pianoforte, Chant de Gondolier, in Venezia e Napoli, quindi in realtà è un tema che lui riusò più volte in varie composizioni, ma questo poema sinfonico fu completato nel 49 e venne fondamentalmente pensata come un'ouverture in due parti, e chiese a Auguste Conradi il lavoro di orchestrazione. Questa versione venne eseguita a Weimar in Germania in occasione dei 100 anni della nascita di Goethe, come un'ouverture al suo dramma Torquato Tasso, quindi era fondamentalmente sì, viene considerato un poema sinfonico, ma è anche a tutti gli effetti un'ouverture di un'opera più grande, più completa. Liszt modificò successivamente, come abbiamo detto, la stesura di Corradi affidando il lavoro a Joachim Raff, che ne realizzò una nuova versione poi nel 50 e 51. Ulteriormente cambiata radicalmente con una sezione centrale nuova inserita dopo, e questa versione ultima venne eseguita poi sempre a Weimar il 19 aprile del 54 sotto la direzione di Liszt. Goethe, venendo poi appunto al tema di questo poema, Goethe tratteggiò la figura del tasso ponendo in primo piano la figura di poeta di corte della famiglia degli Este, inserendola fra gli intrighi politici del ducato, quindi gli diede un po' questa, sì, questa un po' aria, un po' da intrigo, dal romanzo, Appendice. sì, volendo sì, anche un po' d'appendice. Però ovviamente Liszt, come sappiamo, era figlio del suo tempo e non è che era tanto, cioè non era proprio così. Probabilmente l'attrazione di Tasso per questo tipo di intrighi invece a Liszt non lo colpiva particolarmente, era più attratto dai conflitti interiori di Goethe stesso e quindi poi anche del Tasso, ovviamente. E dai 7 anni che trascorse il Tasso all'interno dell'ospedale di Sant'Anna, un ospedale psichiatrico. Ne abbiamo parlato, fra l'altro, secondo me, quando abbiamo parlato, non mi ricordo come mai, forse per l'Orlando Furioso, Sì. quindi varie composizioni nate dalla pazzia dell'Orlando, non mi ricordo, comunque secondo me sì. In realtà fu la sofferenza e il finale trionfante di Tasso, in qualche modo, che ispirò la fantasia di Liszt, chiaramente da romantico qual era. Nella sua prefazione al Tasso, Liszt fa riferimento non solo a Goethe, ma attenzione, anche al poema di Byron, di Lord Byron, Tutti allegroni, perché sì, comunque. un altro figlio del suo tempo, come dicevamo. E però ovviamente anche Byron non poteva non appunto essere affascinato anche dalla figura del Tasso, e sia dal suo scritto, ma anche forse soprattutto dalla sua vita. Quindi Liszt a sua volta riprese da Byron e disse di essere, e dichiarò poi dopo di essere stato molto influenzato dalla versione di Byron, insomma dal poema di Byron. Quindi questa versione che ci ascoltiamo, in particolare appunto di questo poema sinfonico di Liszt, in realtà se non sbaglio, dovrei aver preso quella giusta, dovrebbe essere l'ultima versione, quindi l'ultimo rifacimento, perché appunto, come dicevamo, ce ne sono stati un po'. Ecco sì, questo è uno di quegli esempi di poema sinfonico che più affonda le radici nella tradizione letteraria, quindi la cui ispirazione è proprio una serie di salti mortali abbastanza collegati l'uno all'altro, appunto da Tasso a Goethe a Byron, però non è però didascalico, ecco, è quindi un'ispirazione, è quindi un modo per. Così per omaggiare, però appunto è un'ispirazione, qualcosa che l'autore prende mentre ci sono altre opere più dettagliatamente, no, se pensiamo a quadri di un'esposizione di Mussorgsky, sono i quadri che lui vede, quindi ogni quadro specifico, quindi è più didascalico in questo senso, questo è più così del tema, appunto come diceva Amare, tipicamente romantica, no? L'ispirazione che si trae e che poi si tramuta. Comunque, ascoltiamocelo. Sì, ora io con un triplo salto mortale metterò questa musica cercando di non fare del silenzio, ma lo farò sicuramente, quindi ecco. No, no, no, forse ce la faccio. Eccola. Thank you. Qua, beh, direi che il lamento c'è stato e il trionfo pure. Tutto. Trionfo a bestia. Trionfo a bestia. Anzi, per essere Liz mi sembrava anche abbastanza preso bene. Sì, parecchio, no? Cioè, si è lamentato di me. Era meno lamentone e più. Buona scelta. Fanfare. Ottima scelta. Quindi, beh, ora però abbandoniamo questi trionfalismi e queste cose così, perché rientriamo nei nostri ranghi un po' più stregoneschi. Che a noi, come sapete, come ben sapete, ci piacciono sempre. Perché sì, poi, ora il secondo, poi, allora ve ne facciamo sentire tre, già giusto per darvi un po'... Così vi regolate. Sì, e questo qua, questo poema qua, è un poema invece di Dvorak, abbiamo scelto. Forse però sto correndo e tu volevi dire altre cose introduttive. No, in realtà no, abbiamo già detto quasi tutto in generale sul poema sinfonico. L'unica cosa che forse si può aggiungere è che appunto i poemi sinfonici non hanno una caratterizzazione di forma troppo stretta, nel senso che ce ne sono alcuni appunto come questo adatto unico, solitamente sono adatto unico, però alcuni sono divisi in parti, questo no, per esempio che abbiamo appena ascoltato, però ci sono degli altri poemi sinfonici divisi in parti, pensiamo appunto anche a Romeo e Giulietta di Tchaikovsky, che essendo poi stato usato anche diventato poi una suite da balletto, ha le varie parti. Alcuni hanno proprio sono divisi proprio a pannelli, come si diceva il trittico di Respighi, perché sono tre quadri diversi, quindi ognuno è un quadro. Quindi ecco, ci sono dei poemi sinfonici composti da sei parti. Quindi ecco, diciamo che il poema sinfonico, appunto, rispetto magari a altre forme, ha una, un po' più di, concede un po' più di libertà. Non a caso, probabilmente, non lo so, dico io, magari sbaglio, però. Il fatto che sia una forma molto usata anche dai musicisti del Novecento, quindi no? Che si staccano un po', sicuramente si allontanano dalla tradizione più classica della musica classica, probabilmente proprio perché concede una libertà, ecco, maggiore, non solo nell'ispirazione, ma anche un po' nella forma. E questo è, insomma, tutto quello che comunque si può aggiungere. Sì, nel particolare questo invece di Dvorak è la strega di mezzogiorno, o anche detta l'opera 108 per i meno fantasiosi, ed è un poema sinfonico, come dicevamo ovviamente, scritto nel 1896, ispirato da questa poesia, Poledniece, non ho veramente idea di come si legga, quindi boh, forse è meglio anche che non mi lancio. Non mi voglio esporre. Comunque, insomma, La strega di mezzogiorno, una poesia di Carel Erben, che a sua volta trae spunto da una figura leggendaria del folklore slavo, questo demone chiamato la signora di mezzogiorno, che poi appunto una signora che potrebbe essere simile alla figura della strega, comunque un demone, o una creatura comunque in qualche maniera malvagia, cattiva, misteriosa. In particolare, questo poema ci racconta appunto una fiaba in qualche maniera. Una donna avverte il figlio. Frequentissimo, veramente, come sempre, cioè, Strano. così, fiabe slave, sempre comunque. Sì, tipo quelle del Casentino, fondamentalmente. Esatto. Ecco, e allora, cioè, il classico sembrerebbe almeno così, il classico, la classica fiaba morale per terrorizzare i bambini. E lo è, ovviamente. Una donna avverte il figlio che se non si comporta bene la strega di mezzogiorno lo rapirà. Cioè, Quella mangia tutto, se no. la cosa classica, no? Il babau, Sì. tutto. Cioè. Se non fai il bravo, la strega ti rapisce. Il bambino, ovviamente, che fa? Se ne frega, non l'ascolta. E quindi che succede? Ovviamente la strega a mezzogiorno arriva e chiede alla mamma che il bambino le venga consegnato, perché così Giusto così. funziona così. E più tardi, tornato a casa, il padre trova la moglie svenuta con il cadavere del figlio tra le braccia. Per proteggerlo dal demone, infatti, la donna aveva accidentalmente soffocato il piccolo. Che forse era meglio se andava col demone, perché magari si divertiva. Vedi, ste mamme devono sempre Bellissimo, sì, esagerare. Cioè, di cioè è una piazzettina. storia Cioè, scusa, bellissima. perché. Cioè, e la morale qual è? È meglio se vai col demone, perché con la mamma sicuro non va a La finire morale è che se bene. fai il bravo, pietre, se fai il cattivo, pietre Non ci si salva uguale. mai. Comunque, in ogni caso, No win. una tragedia. Così, giusto per aggiungere qualche info, la strega di mezzogiorno fa parte di una serie di brani sinfonici ispirati dal folklore boemo. Dvorak è un habitué, le danze in generale, lui era molto legato, come quasi tutti, insomma, i musicisti russi o comunque est europei, molto legati all'antropologia musicale del proprio paese. E scritti dopo il ritorno del musicista dagli Stati Uniti, quindi quando dagli Stati Uniti tornò in Europa. Un'esecuzione semipubblica ebbe luogo al Conservatorio di Praga nel 1896. La prima esecuzione, però ufficiale, avvenne nello stesso anno a Londra. E questo è appunto più o meno, ecco, per dare così, una collocazione temporale. Altra nota a margine, un'altra strega che avevamo incontrato. Forse la più famosa dei poemi, un'altra strega da poema sinfonico, è Baba Yaga, la Eh sì. strega di uno dei quadri, di un'esposizione di Mussorgsky. E così scoprivatelo. Quindi vi lasciamo a quest'altro 13 minuti se non sbaglio, sì, 13 minuti precisi precisi di quest'altro breve poema sinfonico di Antonin Dvorak, La strega di mezzogiorno. Thank you. Thank you. capito? Che finale? È così, ma Dvorak è un ragazzo, mi piace infatti. Anche a me. Un po' allegro, un po' si è preso bene, un po' intenso. No, bella poi questa, dai. E comunque molto. Il finale, appunto, il figlio muore, lo stesso schiatta e comunque non è che si poteva fare pli. No. Cioè non ci si sta... Ma poi comunque secondo me era più per dare, al di là della storia, l'essenza di questo personaggio, no? Cioè lui fa un po' sempre... Comunque il poema sinfonico appunto si presta molto a dare delle impressioni, no? È quasi una forma impressionista, se vuoi, buttata lì. Va bene, prima che qualcuno che conosce davvero musica classica mi venga a cercare, passiamo al nostro ultimo ascolto. E lo sai che mi sono accorta adesso che ho fatto una cazzata? Ah, invece no, bene. Okay. No, no, ah, cioè, no. Tchaikovsky, ma ho sbagliato a scaricare il... Bellissimo. Quindi abbiamo... No, allora, sorpresa. E poi è bello perché, cioè, me ne potevo accorgere... No, me ne sono accorta ora. No, allora, noi vi volevamo far sentire il Fatum... poema sinfonico opera 77 di Tchaikovsky, ma invece l'overture di Romeo e Giulietta. Ah vabbè, vabbè, non è andata male ragazzi, anzi voluto era proprio... No, ma perché oggi la Maria è in trasferta, comunque insomma ha già fatto anche troppo, ora non chiediamo quando uno si sposta dalla tana a un'altra tana, cadono le cose, uno perde le cose, quindi è andata così. Comunque non vi ha trattato male perché l'overture l'avevamo già citato, del celeberrimo Romeo e Giulietta. È un pezzo molto noto, molto usato appunto, e è parte di un poema sinfonico che appunto io non ho mai capito la classificazione di questo poema, perché non ho capito se è una, l'ho sempre chiamata suite per balletto, però forse il balletto è venuto magari dopo, e quindi in realtà lui l'ha creato come poema sinfonico ispirato a Romeo e Giulietta, e in realtà poi è stato usato anche come suite per balletto. Comunque questa è l'overture, quindi il pezzo iniziale. Sì, che poi appunto sono 20 minuti, quindi è un'overture, giustamente viene considerata un'opera sinfonica, perché come le altre che abbiamo ascoltato, insomma, la durata è lunghina per essere un'overture e bassa. E poi sì, di fatto noi ci eravamo preparati sul resto, quindi ve la lasciamo un po' così. Tra l'altro... ce la ricordiamo, sì, qualcosa. Tanto era anche l'ultimo brano con cui in realtà già pensavamo di salutarvi, però aggiungerei che fuori dai microfoni ci dicevamo che sicuramente dobbiamo dedicare una prossima puntata della Fuga del Gatto ai paesaggi, quindi ai poemi sinfonici che però raccontano dei paesaggi, perché tra quelli che potevamo farvi ascoltare oggi ce n'erano sicuramente alcuni che fra l'altro te hai già citato, però insomma che potrebbero essere molto interessanti da farvi ascoltare, sono molto belli e che descrivono appunto vari paesaggi. E poi secondo me potremmo riazzardare, e lo faremo perché sono mesi che ce la promettiamo, una puntata dedicata a Shakespeare, quindi sì, certo. Alla musica. E quindi questo è uno spoiler. Vi volevo offrire questo spoiler anche perché così fidelizziamo, no? La nostra... Stanno tutti lì a aspettare. Certo, perché poi alle 6 la domenica, magari è questa la volta buona che faranno, e invece no. Però vabbè, noi siamo capricciose come ormai chi ci ascolta sa, però insomma sappiate che se vi collegherete ogni domenica alle 6 e mezzo, a seconda di come ci gira, su Radio Wombat, ovviamente potete, chissà, incappare, chissà, in ricchi premi, sì, e cotillon, come diceva Fantozzi. E come altri compositori, da Berlioz a Prokofiev, Tchaikovsky venne profondamente ispirato da Shakespeare, appunto, come dicevi Vale, sempre le puntate su Shakespeare, e scrisse molte opere basate sui suoi soggetti, come ad esempio La Tempesta e Amleto. A differenza però di altre composizioni più celebri, Romeo e Giulietta non ha un numero d'opera, quindi non è appunto numerata, e anche se scritta come overture fantastica, il disegno complessivo è quello di un poema sinfonico, dicevamo appunto in forma sonata, con un'introduzione ed un epilogo. Probabilmente per questo si presta anche alla forma balletto, per cui è stato poi usato, perché è un po' appunto a parte. Il lavoro si basa su tre temi principali della storia di Shakespeare. Il primo tema, in fa diesis minore, pare essere l'introduzione che rappresenta frate Lorenzo. Si può qui ravvisare un ricordo, fanno riferimento all'ortodossia russa, ma anche a un presagio di sventura. C'è poi un tema che significa il primo incontro della coppia e la scena del balcone, conosciuto come il tema d'amore. E poi il tema finale svolge un dolce omaggio alle amanti ed è stato scritto 2 giorni prima, dopo la prima ouverture, quindi applicato successivamente. Quindi riconoscerete sicuramente, come sempre nelle ouverture, i vari temi che poi ricompongono l'opera, ed è sicuramente uno dei lavori più, si può dire, più belli, più famosi di Tchaikovsky. E poi un giorno vi faremo ascoltare anche il Fatum, perché era bellissimo in realtà, però purtroppo... Vabbè, recuperiamo. Sì. Miracoli della diretta. Esatto, te lo avrei fatto anche non in diretta. Comunque va bene, ci si quindi ritroverà di nuovo con chi ci vuole ascoltare alla Fuga del Gatto domenica prossima, sempre intorno alle 18. E nelle repliche settimanali. Esatto, oppure insomma quando volete voi, ascoltando il podcast. Vi ricordiamo dal sito radiowombat.net ovviamente. E purtroppo non sulle onde medie, perché il ruggito del Wombat si è di nuovo affievolito, le onde medie hanno subito delle sventure tecniche, come spesso succede, e quindi in onde medie sentirete solo casino, fruscio e casino. Per ora, ma ritorneremo. Ma ritorneremo, come disse lui. Lo disse lui. Certo, le citazioni ambiguazze della Fuga del Gatto. Vabbè, un po' di così. Folklore alla Fuga del Gatto. Bene, e quindi vi salutiamo, vi diamo la buona domenica e a domenica prossima. Ciao ciao.